L'insegnamento del regno dei cieli, parte 1, file audio 1. Sul libro. Nel libro Kabbalah per la gestione completa della vita, ho scritto: la cosa migliore è leggere e imparare dalle scritture più segrete in lingua originale. Ora è venuto il momento di parlare delle lettere della lingua santa. Santità significa dare. Quando leggi e studi queste lezioni, devi prenderti il tuo tempo, fallo lentamente e con la massima concentrazione. Ogni lezione, ogni pagina, ogni frase, ogni parola, ogni lettera che vedi, ponila nel tuo cuore, perché appartiene alla lingua santa. Avere un po' di conoscenza delle lettere ebree è un dovere. Non lo sottovalutare. La specialità specifica della lingua santa, delle lettere ebree, è di trasformare i kelim nell'aspetto del dare. Nessun'altra lingua può farlo. Soltanto nelle e dentro e dietro le lettere ebree puoi trovare la santità pura, che è l'aspetto del dare, la luce, il creatore, è all'interno delle lettere ebree. Non c'è alcun altro luogo, makom in ebraico, che in queste lettere. In particolare nelle sorgenti cabalistiche come l'insegnamento del regno dei cieli, che è scritto da me, lo Zohar, Shlavei HaSulam, Etz Chaim, Etes. Questo è sufficiente. L'essere umano del nostro mondo si chiama essere umano inferiore. L'essere umano del mondo Atzilut si chiama essere umano superiore, vale a dire eterno, spirituale e altruista. Quest'essere superiore circonda Zeir Anpin, del mondo Atzilut. Tutte le lettere della Torah e le loro combinazioni formano il corpo kelim dell'essere umano altruista superiore di Atzilut. Queste lettere discendono nel nostro mondo da Zeir Anpin, del mondo Atzilut. Ora probabilmente capisci perché è così importante occuparsi dei segreti della Torah, perché solamente ed esclusivamente facendo questo puoi trasformare i kelim di ricezione appartenenti all'essere inferiore, in che l'in del dare appartenenti all'essere superiore. Non c'è alcun altro modo di trasformarsi nell'essere superiore che lentamente e passo dopo passo sviluppare il corpo interiore spirituale come è nell'essere superiore. Solamente grazie a questo puoi ricevere la salvezza e completezza. È possibile sviluppare i Kilim solo quando vedi e leggi le lettere sante o Tiyot. Nelle sacre scritture ci sono altri tre elementi chiamati Tant. Ta è l'abbreviazione per Tagim, corone sopra le sante lettere. N è l'abbreviazione per Nekudot, segni o punti che indicano vocali. Te è l'abbreviazione per Tamim, sapore. Tamim sono anche segni utilizzati nella liturgia e libri di preghiera che puoi paragonare con note musicali. Questi tre elementi, Tant, sono in conformità con le tre luci Naran, Nefesh, Ruach, Neshama. Inoltre, con questi tre elementi puoi correggere i tuoi Kelim, vale a dire i Kelim del desiderio di ricevere al fine di ricevere, in Kelim del dare, chiamati dare al fine di dare. Siamo noi a correggere la creazione, ebraico tikkun briah, tikkun abriah. E questo accade quando correggi il tuo desiderio di ricezione in desiderio del dare. Quando hai ricevuto i Kilim del dare al fine di dare, sappi che questi non sono gli ultimi Kilim. C'è un'altra fase, la ricezione delle luci di Gar. Gimil Reshonot, tre primi. Questi non sono veri Kilim appartenenti a Zeirampin e Malchut, ma in un certo senso li prendi in prestito da Zeirampin e Malchut di Binah. In un certo senso, i nostri veri Kelim sono quelli di Zeirampin e Malchut, ma essi sono separati dai tre Kelim, Keter, Chochmah e Binah. E le luci che vi appartengono, Nefesh, Ruach e Neshama. Questo a causa della prima restrizione, chiamata Tzimtzum. Ma solo quando raggiungi lo stadio della luce di Gar, Gimel Reshonot, In altre parole, lo splendore della luce, Chokhmah, può correggere i kelim del ricevere al fine di ricevere i kelim del dare. Chiamiamo quest'ultima fase ricezione al fine di dare. Questa fase si trova entro l'obiettivo della creazione, Matarat Abriyah. Quella è l'intenzione del nostro studio. Le fonti cabalistiche sono nascoste in tutte le nostre lezioni e libri. E leggendoli puoi arrivare alla completa trasformazione dei tuoi kelim. Una trasformazione completa significa sopra il chasè, dove si trovano i kelim del dare, al fine di dare, e sotto il chasè. In italiano, dove si trovano i kelim del ricevere al fine di dare. Come puoi raggiungerla? Studiando Shlavei HaSulam, ricevi le luci Nefesh en Ruach. Dallo studio dello Zohar, puoi ricevere principalmente la luce Neshama. Poi dallo studio di Etz Chaim e del commento di Baal HaSulam in Tes, ricevi Gar, le prime tre luci. Inoltre puoi leggere il libro, il manuale, e Kabbalah per la gestione completa della vita. In tutti questi lavori puoi trovare il tuo metodo unico e individuale per il lavoro spirituale secondo la Kabbalah lurianica. In questa maniera puoi stimolare i tuoi kelim e ricevere le luci corrispondenti che ti daranno una sensazione di totale consapevolezza in tutto quello che fai nella tua vita giornaliera. Per questo motivo voglio stressare l'importanza di ogni lezione. Leggi ogni lezione lentamente e concentrati su ogni parola. E se ne hai la possibilità, fallo con le lettere sacre. Fai posto nel tuo cuore per la qualità, non la quantità. Quanto fai non è importante. L'intenzione, Kavanah, è più importante di quanto tu possa notare. La Kabbalah aiuta. Leggi questo libro con piena concentrazione, con consapevolezza assoluta, e vivi la tua vita facendo uso di quello che hai letto. Allora la via per i mondi spirituali si aprirà per te e tu potrai arrivare e provare la tua salvezza. Usa l'intenzione più alta e passo dopo passo arriverai alla tua salvezza, al tuo adempimento, alla tua completezza. Fai attenzione, questo libro è costituito da lezioni orali che ho dato ai miei studenti in olandese. Poiché non hai preso parte a queste lezioni, può essere difficile e può darti l'impressione di non capire perché il linguaggio usato non è sempre appropriato grammaticamente e può sembrarti che non ci sia alcuna sequenza a causa delle interruzioni e spiegazioni aggiuntive. Traducendolo nel modo più puro possibile, la forza della parola parlata rimane disponibile a causa della forza nascosta nella parola parlata, è importante che tu legga lentamente e soprattutto non abbia fretta. In un certo senso, la parola scritta ha la stessa forza, ma tu devi essere molto accurato. Non cercare di capire con la tua testa, ma lascia che il testo entri in te e ponilo nel profondo del tuo cuore. Le cinque fasi del liberatore. 1. Il nome Yeshua. Ti racconterò cose che non udirai né leggerai in alcun altro posto. Non c'è rabbino alcuno in questo mondo che abbia ricevuto questa informazione, perché solo adesso è giunto il momento giusto di passarla dall'alto a chi ha volontà di ascoltare ed è preparato a sforzarsi per il proprio adempimento completo. Questo è il momento giusto perché ognuno di noi si trova alla soglia della liberazione completa. La fine ultima arriverà molto presto. A me è dato l'insegnamento eterno del Regno dei Cieli. Questo insegnamento è una parte strutturale dell'insegnamento generale. È una parte del processo per liberare l'essere umano dalle sue abitudini diaboliche. La morte non esisterà più e noi raggiungeremo la vita eterna. Il pensiero creativo del Creatore tutto questo è parte del vero insegnamento della Cabala Lurianica. Non mi interessa per nulla il perché sia stata data a me e non ad altri. Io apro me stesso perché sono colui che ne ha bisogno. Una persona deve essere sempre pronta a dire: Ineni, eccomi. Approfittati di me, perché sono pronto a compiere ciò che deve essere compiuto. Per questo lo dico ancora una volta: non c'è nessuno qui sulla terra, nessun leader spirituale, ecclesiastico, rabbino, prete o guru, che sappia o abbia saputo o che provi o abbia provato questo. Se un papa udisse questo, sarebbe immensamente felice. Se Mosè potesse sentirlo, si alzerebbe dalla tomba, dal posto sconosciuto in cui è sepolto. Lo stesso Shimon Bar Yochai, l'autore del libro dello Zohar, sarebbe immensamente felice se udisse ciò che ti sto per dire. Urlerebbe: finalmente! Non ho scritto lo Zohar per nulla. E il mio ultimo maestro, Lari, sarebbe molto sollevato e direbbe: finalmente qualcuno che mi capisce. Posso dirlo senza falsa modestia, perché la saggezza che ricevo non viene da me. Io tramando quello che mi è dato. Sta a te utilizzarlo e praticarlo nel tuo lavoro giornaliero. In passato non eravamo pronti, ma ora il momento è giusto. È scritto, e il mondo intero saprà che tu sei Hashem, Dio. La ragione per tutto il tuo apprendimento è l'ottenimento della tua salvezza. Ho fatto un disegno che ogni persona saggia del passato ha sognato, dal patriarca Avraham, Yitzhak e Yaakov fino a ora. Ogni persona che vuole raggiungere la sua completezza ha questo sogno, altrimenti non si sforzerebbe per la felicità. Tutto è in conformità con il suo pensiero creativo. Questo è quello che voglio enfatizzare, così che tu legga con piena attenzione e la giusta intenzione. La cosa più importante è di non lottare di non lottare con l'autore, con me. Sappi che non potrai comprendere alla prima lettura. Avanzerai gradualmente, tutto in conformità con la tua comprensione personale. Con grande soddisfazione ti mostro la soluzione del puzzle spirituale. Il tempo pressava e pressa per arrivare alla soluzione di questo puzzle spirituale, altrimenti come possiamo giungere alla connessione piena con il Creatore? Ho fatto cose nella mia vita che erano impossibili e possibili solamente per arrivare all'esperienza di quella che chiamiamo vita e per ricevere la salvezza. E l'ho ricevuta. Già in questa prima lezione puoi notarlo. Osserva con la massima attenzione la prossima figura, e dopo te la spiegherò. Segue un disegno nel libro. Non puoi capire immediatamente quello che ho disegnato per te. Tieni a mente questa figura e osservala di tanto in tanto. È una figura della ricezione della luce nel generale e nel particolare, data all'essere umano fino al completamento della creazione. È la prima volta che una tale figura è stata fatta. Voglio rilevare l'importanza di questa figura, perciò osservala molto attentamente. Prima voglio dire alcune parole. Durante la lezione mi è stato domandato dai miei studenti com'è possibile che Yeshua di Nazareth venne dopo Mosè in ordine cronologico. Tu vedi il nome di Yeshua scritto nella lingua originale. È molto importante vedere nomi e alcune parole nella lingua santa, l'ebreo, l'ebraico, perché la verità si trova nelle sante lettere. Io userò i veri nomi e voglio qualificare il loro significato. Prima alcune parole sul nome Yeshua di Nazareth. Nel cristianesimo il nome Gesù è valido e proviene dalla traduzione greca della Settuaginta. Prima fu fatta la traduzione latina e poi quelle in tutte le altre lingue. Il greco antico non aveva sibilanti, come per esempio sh, s, perciò le sh del nome Yeshua, per esempio, furono rimpiazzate con s. Si può riconoscere una parola greca perché in genere termina con os. E più in là, in Romani, i Romani cambiarono os in us. Quindi il nome divenne Gesù. Il Nuovo Testamento è scritto in greco. Per questo motivo tutte le altre nazioni dissero Gesù o Jesus, invece di Yeshua, a causa dell'esistenza del nome Gesù, la forza originale intrinseca del nome Yeshua fu persa. Si usava e ancora si usa il pensiero del proprio nome come forza salvatrice. Questo pensiero venne da loro che non erano ebrei. Gli ebrei lo chiamarono Yosha. Questo nome non è neanche corretto. Nell'alfabeto ebraico ci sono vocali riflesse in punti nekuda. Sotto la lettera Shin c'è la vocale chiamata kubuz. E quando vedi questi tre puntini in quest'ordine, sappi che è la vocale U. In questo si cela un segreto molto profondo. Il suo nome era Yosha nel periodo in cui non ci fu alcuna rivelazione di Yeshua, o non ci fu nessuno a cui poterlo rivelare come Yeshua. Perché? In un certo senso, questo suono di U non era una lettera, ma solo un nekudah, una vocale. Come sai, solo le consonanti sono usate nella lingua santa, con il significato di portatori o kelim, che sono in conformità con le forze universali. Si nasconde un grande mistero nel nome santo Yeshua. Quando questo nome è nascosto, si vede il suo nome senza la lettera Vav. Si vede solo il Nekudah Kubutz, per questo si legge questo come, no, questo nome come Yosha. Solo quando Yeshua si rivela all'essere umano, alla lettera Vav. Questa lettera Vav mostra una condizione considerata uno zivug, interazione con l'alta luce. Ma dopo ti dirò di più. Inoltre, gli ebrei videro e vedono il nome Yeshua come il fondatore della religione cristiana. Ma Yeshua non fece nulla di questo. È un evento storico senza alcun coinvolgimento di Yeshua. Vi è un odio inesplicabile tra le anime di molti ebrei nei confronti di Yeshua ebreo. In un certo senso, il nome Yosha è un soprannome dello stesso Yeshua. Forse sua madre usò lo stesso nome quando era un bambino, ma facendo uso del soprannome ci si vede ancora piccoli. Il suo nome corretto è Yeshua, perciò d'ora in poi userò solo Yeshua, perché questo è il suo vero nome, Yeshua. Alcuni ebrei lo chiamano Yoshke. Alla fine di questa parola hanno aggiunto che sembra un soprannome, ma in realtà è una sorta di scherzo. E non lo facciamo. Che tu sia ebreo o no, imparerai da questo libro il vero significato del nome Yeshua. Per chi è interessato a raggiungere l'adempimento, dimostrerò che non è possibile raggiungerlo senza questo nome Yeshua. Per il momento è abbastanza sul nome Yeshua, specialmente nella religione cristiana. È tradizione usare lettere maiuscole per il nome Yeshua, ma io non lo faccio. Quando parlo di lui in relazione al Creatore, a Ein Sof, lo scrivo il suo nome in maiuscolo, al contrario dei cristiani. Per loro il nome Yeshua è come Dio. Ma tu devi capire e sapere che questo nome Yeshua è il più alto Keter all'interno dell'anima umana. Le sfera Keter, anche il più alto Keter, appartiene a entrambi, al Creatore e alla creazione. Entrambi gli elementi sono all'interno. La nitzutz, o scintilla del Creatore, e la nitzutz, scintilla della Nivra, della creazione. E quando uso la parola combinazione del alto Keter, uso la maiuscola per distinguere l'alto Keter dal basso, Keter delle umane, delle anime. In ebreo c'è un detto, Yesh mi yesh, esistenza dall'esistenza. E quando parlo di questo, naturalmente uso la maiuscola. Per esempio, il nome Hashem, Havaya, Elohim, l'alta luce, eccetera. Come ho detto prima, il significato del nome Yeshua è liberazione, salvezza. Entro questo nome santo si trova la forza della salvezza dell'alto Keter. Non c'è assolutamente alcun aviut nel alto Keter. Ma nel secondo capitolo, insegnamento del Regno dei Cieli, che è tratto della parola di Yeshua verso la gente, puoi vedere che i pronomi riguardanti Yeshua hanno lettere maiuscole, cioè quando mi riferisco a Yeshua, scrivo lui o suo, eccetera, perché Yeshua è il più, la forza dell'Yeshua, è il più alto Keter dell'anima umana, e anche perché Yeshua è il suo unico figlio. Tutti i riferimenti al nome Yeshua hanno lettera maiuscola. Avvertimento. Nelle lezioni, libri, spiegazioni, è tutto quello che ho da offrire ai miei studenti, ora e in futuro, così come ai miei lettori, ricordate questo. Ho scritto con le lettere maiuscole. Non dico mai una parola sulle nazioni fisiche, gente, religioni, gruppi e persone, eccetera. Quando uso parole come ebreo, cristiano, Mosè, il papa, il rabbino, un guru e persino Yeshua, mi riferisco alle corrispondenti condizioni spirituali, perché tutto è all'interno di un essere. Questo mondo materiale non è il tema della Cabala Lurianica. Io non mi occupo solamente delle alte radici spirituali di questo mondo. Tutti i miei studenti lo sanno e lo capiscono, ma tu, caro lettore, devi impararlo. Non fare alcuna associazione tra immagini e le mie parole richiede molto sforzo. Devi porlo nel profondo del tuo cuore. Io non parlo mai dell'essere umano in carne ed ossa. di gruppi o istituzioni di questo mondo. Libera te stesso da qualunque immagine tu possa aver associato. Dal lato mio non ci sarà alcuna reazione o domande su questo tema, su questo approccio. Io vado più in profondità, non prendo alcuna responsabilità per interpretazioni sbagliate di concetti spirituali, fenomeni e processi che troverai nei libri e nelle lezioni. Perciò ancora una volta, tutte le parole che dico non sono a riguardo di questo nostro mondo.